A breve, con qualche minuto di ritardo, inizia una nuova puntata di Sapienza Clandestina qui su Radio Onda Rossa. Programma di approfondimento sul mondo della formazione a partire da scuole e università. Radio Onda Rossa. Di dare inizio a una nuova trasmissione di Sapienza Clandestina su Radio Onda Rossa, vi diamo un'informazione per tutti quelli e quelle che hanno chiamato chiedendo al riguardo del processo del 15 ottobre a marzo, ovvero oggi. Era prevista la conclusione del processo che vede accusate 18 persone per i fatti avvenuti durante la manifestazione del 15 ottobre 2011. Ebbene, dati dei dettagli che non erano stati forniti agli avvocati per la difesa di questi imputati, il processo è stato rimandato all'11 maggio.

scambio di trasmissioni perché suscitano particolare interesse rispetto alle tematiche che affrontiamo solitamente. Invece all'inizio di questa trasmissione ci tenevamo a dare alcuni aggiornamenti e fare insieme alcune riflessioni riguardo quello che sta succedendo in questi ultimissimi giorni, in particolare ieri e oggi a Roma, ma anche quello che è successo nell'arco dell'ultima settimana nel resto d'Italia, in particolare a Firenze e a Palermo. Tutte le questioni che toccano queste città sono irrimediabilmente legate al decreto del ministro Lupi, un decreto che in particolare negli articoli 3 e 5, come tante volte abbiamo detto da questi microfoni, tratta della svendita del patrimonio pubblico, di occupazioni e di sfratti. Bene, innanzitutto diciamo che ieri qui a Roma, come dicevano anche gli altri compagni prima di noi, in mattinata 6 compagni sono stati prelevati dalla Digos nelle loro case, nelle loro abitazioni, e sono state portate alla questura centrale di Roma in via Genova. Ebbene, le accuse riguardavano soprattutto resistenza e saccheggio e violenze rispetto alle forze dell'ordine in un episodio di mobilitazione compagnesca e non solo per lo sfratto di Farouk avvenuto nel settembre 2014, quindi all'inizio di questo anno accademico, diciamo così. In questo episodio Farouk e la sua famiglia, abitanti di una casa popolare, erano stati minacciati di sfratto, e questo sfratto in particolare è divenuto molto importante anche nelle cronache degli sfratti romani che oramai si susseguono quotidianamente a partire dall'approvazione del decreto Lupi, perché ci sono state delle violenze e degli scontri con le forze dell'ordine. A questi compagni sono state date le firme per 3 volte a settimana, e con delle accuse di detenere materiali contundenti, di aver lanciato oggetti e via discorrendo, anche se le prove che adducono la Digos e coloro che si stanno seguendo questo caso, diciamo, dall'altra parte, non sono sufficienti ad incolpare ed incriminare una specifica persona di queste 6 per aver detenuto questi oggetti. Quindi è assolutamente, diciamo così, un procedimento politico che volge all'intimidazione dei movimenti, come tante altre volte è accaduto in passato. Ma questa non è l'unica notizia che ci arriva da parte della repressione nella mattinata di ieri. Infatti nella mattinata di ieri, mentre avveniva questo a Roma, nella capitale siciliana, a Palermo, avveniva un altro fatto altrettanto grave e che ha colpito 28 fra compagni e compagne, studenti, occupanti, migranti e non solo, di cui 17 di questi 28 hanno avuto come misure cautelari le firme giornaliere. Questi episodi che toccavano in particolare i centri sociali, ex carcere ed anomalia, diciamo, sono state fatte per episodi e fatti avvenuti in un arco temporale piuttosto vasto, negli ultimi 5 anni all'incirca, e che colpiscono in particolare tutti coloro che quelli e quelle che hanno portato avanti il movimento a Palermo e in tutta la Sicilia. Quindi sono stati colpiti per occupazioni, ma anche per picchetti antisfratto e anche per giornate di piazza. Quindi diciamo una vasta ondata di repressione che colpisce un larghissimo numero di persone per le motivazioni più disparate. Diamo, diciamo, degli appuntamenti che si sono dati anche i compagni e le compagne di Palermo. Per oggi al centro sociale ex carcere ci sarà una grande assemblea per discutere questi temi. Invece, ritornando alla capitale, a Roma, e parliamo di quello che è avvenuto ieri. Come vi dicevo prima, vi ho dato qualche informazione nel pomeriggio, quando sono stati rilasciati i compagni con queste 5 di questi 6 con le misure cautelari, un altro denunciato a piede libero. Si è fatta una grande assemblea e questa mattina molti compagni e compagni sono andati ad assistere un'altra signora che stava subendo uno sfratto in zona Alessandrino, parliamo di via del Grano 15. Questo sfratto, similmente a quello di Farouk, forse anche alla luce di quello che è successo ieri, ha visto una presenza già dalla mattina molto presto massiccia di forze dell'ordine. Dunque i compagni e le compagne sono ancora in presidio sotto l'abitazione di via del Grano numero 15 e stanno riportando la loro voce rispetto ai fatti di ieri. E inoltre diamo un'altra notizia, che la signora in questione, abitante della casa, ha avuto un malore ed è stata portata via in ambulanza, ovviamente dovuto anche alla situazione piuttosto stressante, piuttosto allarmante di questa presenza massiccia e minacciosa di forze dell'ordine. Chiudo, diciamo, questo panorama complessivo della situazione che sta colpendo la nazione riguardo queste tematiche di cui discutevo, e parlando di quello che è successo a Firenze nell'ultima settimana e anche ieri a Firenze la settimana scorsa. In una mattina sono stati sgomberati 2 stabili. Questo diciamo episodio fiorentino è particolarmente interessante perché in Toscana vi è, attraverso la delibera regionale che si è concretizzata nella legge Saccardi, un provvedimento che va ad attuare e ad applicare nel pratico il decreto Lupi, diciamo lo primo esperimento in una regione italiana dell'attuazione di questa legge, di questo decreto del Ministro delle Infrastrutture. E dunque questa legge, oltre a riportare ad applicare il decreto Lupi, inserisce delle altre postille che vanno ad attaccare, a colpire nello specifico gli occupanti, cioè non possono riottenere dimora ed essere iscritti nelle liste per riottenere dimora tutti gli occupanti. Quindi è, diciamo, un attacco molto violento ai movimenti per il diritto all'abitare, che nello specifico in Toscana sono molto forti e fanno molta attività da tanti anni. E ieri vi è stato un corteo che ha visto anche questa volta la presenza massiccia delle forze dell'ordine, di scontri e anche di feriti di alcuni compagni e compagne di spicco all'interno dei movimenti del diritto all'abitare toscani, e che era stato un corteo che si era portato proprio sotto la regione toscana a Firenze. Ci sono stati una serie di tafferugli che si sono susseguiti all'interno di tutta la giornata e che sono finiti poi con i blocchi dei pullman di tutti quelli e quelle che erano venuti dal resto della Toscana per assistere i compagni e le compagne di Firenze. Ora vi lasciamo ad uno stacco musicale e poi torniamo con una corrispondenza con una compagna che si trova in questo momento davanti al picchetto antisfratto che si sta tenendo, come dicevo prima, in zona Alessandrino. Di evitarti, signore, questo che ho corso, stare a aspettarti, trovarti al ritorno, e visto che non dormo ora, resto a guardarti ancora un altro giorno finché riesco a scordarti. Potrei parlarti e dirti ciò che provo, ma non so dove cercarti più, non so dove mi trovo ora, ora che mi muovo in mezzo a niente, ora che di nuovo sto toccando il fondo inesorabilmente. È la metà che non mi sente, non vuole, la gente che ha fretta qua, non aspetta il sole. Troppe parole, troppe museruole, troppe lacrime che lentamente bruciano, troppe gole, troppo dolore per troppi pochi istanti, un errore di troppo oppure troppi rimpianti. Certe storie sono troppo importanti e non lo puoi più tagliare il suo cuore senza i diamanti. È la metà ferita, è la metà tradita, a metà strada su una strada infinita, è la metà impazzita, stretta fra le dita, per la metà della metà della mia vita. È la metà ferita, è la metà tradita, a metà strada su una strada infinita, è la metà guarita, la mia via d'uscita, per la metà della metà della mia vita. Sarà che una metà non ha voluto che tornassi, che una metà non non ha creduto che lottassi. Ma la verità è che ho mantenuto gli occhi bassi e la metà del rifiuto temuto la merita. Sarà la prassi, la metà non risolta. Ma se torno sui miei passi sarà la prima volta. E finché c'è una metà che non ascolta e non chiede, l'altra metà che ora si volta e procede. Metà non vede, l'altra metà che affonda. Che succede? È la metà fuori onda. Se metà mi possiede, metà mi asseconda. È solo in seconda sede, la realtà mi circonda. Metà concede, la metà che ha diviso il paradiso per la fede, ma l'inferno è il suo sorriso. Metà deciso che non crede più all'amore. È la metà che ora ha ucciso la sua metà migliore. È la metà ferita, è la metà tradita. A metà strada su una strada infinita. È la metà impazzita, stretta fra le dita. Per la metà della metà della mia vita. È la metà ferita, è la metà tradita. A metà strada su una strada infinita. È la metà guarita, la mia via d'uscita. Per la metà della metà della mia vita. È la metà ferita, è la metà tradita. A metà strada su una strada infinita. È la metà impazzita, stretta fra le dita. Per la metà della metà della mia vita. È la metà tradita. A metà strada su una strada infinita. È la metà guarita, la mia via d'uscita. Per la metà della metà della mia vita. Men find it difficult because the ignorance and I. Simplicity we used to survive. Though what you're doing properly, that's the way through life. Simplicity we used to survive. Men find it difficult because the ignorance and I. Simplicity we used to survive. Children, open up your eyes. It's not the one but the vanity in our name. Animosity in our name. Hypocrisy in our democracy. It's nothing, laba laba in our name. Backstab and I know vampire, evil lost desire. It's just a meditation of my heart. Pure and conscious touch. Be overstanding on the smart. Listen to the children, speak the word and shine the light in the dark, yeah. Simplicity we used to survive. Men to find it difficult because the ignorant and I. Simplicity me used to survive. Do what to learn properly. That's the way true life. Simplicity I used to survive. Children, open up your eyes. Simplicity me used to survive. Burn parasites and strife. Avoid your anger, God for pause. Praise Rastafari and live a worthy cause. Give us all the blessing, give us all reward. To help the poor and find it easy when them find it hard. Simplicity I used to survive. May not find it difficult because the ignorance and doubt. Simplicity I used to survive. I shall live and love your life. Keep doing what you're doing, don't you grumble. Seed what you sow is what you reap, so be humble. What you doing, you never stumble. Burn down Rome, I side and crumble. Lead the way with the word that I speak. Never must you stray, praise the King in the East. Why? I love to teach, praise I am a spirit. Why, simplicity I used to survive. May not find it difficult because the ignorant are not. Simplicity I used to survive. Burn Pharisees and scribes. Simplicity I used to survive. Men who find it difficult because they're ignorant and not. Simplicity I used to survive. Oh, Galantia Taya. It's not the one but the vanity nodding. Animosity nodding. Hypocrisy nor democracy. It's nothing. Laba laba nodding. But stabba nodding. Vampire, evil lost desire. It's just a meditation of my heart. Just a pure and conscious thought. Be over. for standing, I tell you to be smart. Listen to the children and they speak and shine the light in the dark. Simplicity I used to survive, them to find it difficult because they ignorant and dark. Simplicity I used to survive, children, live and love your life. Oh, oh, oh. Sono le 11.01 dell'11 marzo e adesso appunto abbiamo in collegamento una compagna da Via del Grano, la zona dove per l'appunto questa mattina le forze dell'ordine stanno tentando di eseguire l'ennesimo sfratto. Ci senti? Tutti e tutte. Perfetto, li sentiamo. Ok, oggi è stato eseguito lo sfratto della famiglia Ionica a Via del Grano 15. Decine di compagni e compagne solidali già dalle 5 di mattina hanno fatto un picchetto sotto casa di Ionica nel quartiere Alessandrino. E prima delle 8 un dispiegamento di forze dell'ordine, 5 camionette e 2 blindati hanno bloccato le strade del quartiere e nell'arco di 2 ore è seguito lo sfratto. La famiglia comunque ha resistito dentro casa, ha cercato di resistere per un po' dentro casa, dopodiché sono entrati, una volta entrati Ionica si è sentita male, quindi è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza. E Ionica e il marito anche perché aveva una frattura al un dito del piede, sono stati portati all'ospedale policlinico Casilino e sono arrivati anche degli insegnanti del dopo scuola dei due figli minori e anche la figlia si è sentita male, ha avuto un mancamento mentre usciva di casa, quindi una situazione abbastanza delicata e tragica, quindi uno sfratto eseguito con un dispiegamento enorme di forze della forza pubblica. Adesso ci siamo mossi dal quartiere in un piccolo corteo sempre con decine di compagni e compagne solidali per il quartiere dell'Alessandrino e stiamo per giungere sotto l'ospedale in solidarietà della brutalità di Ionica, di tutta la sua famiglia e della brutalità con cui è stato eseguito questo sfratto. Oltretutto durante l'esecuzione sono stati identificati alcuni compagni e compagne, 5 che presidiavano sotto la casa per assicurarsi che insomma la famiglia uscisse in sicurezza e i 3 che stavano dentro con la famiglia sono stati insomma tutti identificati. Anche ora durante il corteo chi si staccava dal corteo, dal presidio, dal picchetto è stato identificato dalla Digos per strada. Quindi questa è un po' la cronaca, la situazione di quello che è successo e che sta tuttora succedendo, perché tuttora insomma stiamo percorrendo le strade dell'Alessandrino verso l'ospedale. Sì. Anche comunicando con il quartiere. Una cosa importante che mi sto dimenticando di dire è che gli abitanti del quartiere che passavano per quelle strade hanno espresso estrema solidarietà con quello che stava accadendo, con il picchetto di solidali, insomma c'è stato molto molto sostegno anche dal quartiere, dagli abitanti di Centocelle, dell'Alessandrino. Sì, sei stata particolarmente puntuale appunto nel descrivere i fatti di questa mattina, no? Anche quello che dicevi adesso, da un lato, come anche raccontavamo qualche minuto fa da questi microfoni, c'è una repressione sempre più accanita nei confronti di chi in qualche modo prova a dire che non è accettabile che delle persone che vengono sfrattate debbano finire in mezzo alla strada. Poi appunto questo susseguirsi anche, no, di malori da parte delle persone, visto che non è che non si sta scherzando, vengono messe persone in mezzo alla strada e uno ormai non può nemmeno più essere solidale da questo punto di vista, e viene identificato e appunto è messo sotto torchio dalle forze dell'ordine. E dall'altro anche, no, questa presa di coscienza piano piano da parte di questi quartieri che sono teatro di numerosi sfratti. Una cosa ti volevo chiedere è se appunto si è fatto sentire qualcuno rispetto alle possibilità che avrebbe la famiglia di Ionica di avere una soluzione dignitosa dopo lo sfratto. Durante lo sfratto è salito anche Rossi, l'assessore per le politiche sociali del quinto municipio, e ovviamente, come già ci immaginavamo, come già sappiamo, non è nessuna soluzione è stata trovata a questa famiglia. Questa famiglia sta letteralmente in mezzo a una strada, ed anche in questo senso dovremmo tutti quanti organizzarsi rispetto a questo, perché appunto l'assessore, il municipio non hanno dato alcuna risposta. Oltretutto insomma, i residence stanno in dismissione, stanno chiudendo, ne chiuderanno 9 a giugno. Sul discorso delle case popolari, insomma, un discorso chiuso ormai, come sappiamo tutti, da tanti anni. Quindi non c'è alcun tipo di risposta, semplicemente una famiglia che vive in una casa, una famiglia come tante che non può più riuscire a pagare l'affitto, che vive in una casa con la muffa, senza riscaldamento, perché gli era stato staccato anche il riscaldamento per una truffa subita dalla compagnia. E il proprietario di casa non aveva mai eseguito alcun lavoro necessario per vivere in adeguate condizioni, si è ritrovato appunto attualmente in mezzo alla strada, quindi alcun tipo di risposta, come in tante altre situazioni, sia di quelle che sappiamo, che seguiamo, sia di situazioni che sono invisibili, perché spesso appunto le persone subiscono nella piena solitudine queste situazioni di sfratto di sgomberi, insomma. Quindi ci sono, ricordo che c'è uno sfratto ogni 246 famiglie a Roma, l'anno scorso c'è stato uno sfratto ogni 246 famiglie, quindi comunque è un fenomeno dilagante, è un problema che riguarda sempre più famiglie. Sì, appunto, diciamo, una risposta ce l'abbiamo da questi microfoni, che è quella di organizzarsi, di andare a riprenderci quello che ci spetta, e quindi anche un tetto sopra la testa, e continuare appunto a occupare stabili vuoti, a occupare appartamenti sfitti, per ribaltare un po' quello che ci dicono, che bisogna rassegnarsi, che bisogna andare a lavorare se si vuole un tetto sopra la testa. Spesso e volentieri non è così, questo non basta, e appunto è quello che ci raccontavi tu, ne è la dimostrazione. Noi ti ringraziamo per questo contributo su quanto sta succedendo, lo ripetiamo per chi si fosse messo in ascolto in questi minuti, questa mattina a Via del Grano 15, dove è avvenuto un ennesimo sfratto di una famiglia con bambini. Ti ringraziamo per la tua corrispondenza. Grazie. Risentirci alle prossime volte. Alle prossime lotte, alle prossime resistenze. Grazie. Ciao a tutti e tutte. Grazie Dante. Ciao. Adesso mandiamo un pezzo musicale e ci risentiamo tra qualche minuto. Sono le 11:16 e appunto siamo Sapienza Clandestina sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Torniamo in onda dopo aver parlato di picchetti antisfratto, di repressione che si è abbattuta in questi giorni sui movimenti per il diritto all'abitare, su chi tutti i giorni si mette in prima persona in gioco per difendere le decine di famiglie che vengono sfrattate ogni giorno, non solo a Roma ma in tutto il territorio nazionale. Abbiamo parlato di quanto successo a Palermo ieri, sempre in chiave repressione, e a inizio puntata parlavamo forse appunto dell'aspetto più importante di questi giorni, quanto avvenuto esattamente una settimana fa a Firenze con gli sgomberi delle due occupazioni e il corteo di ieri che si è tenuto sempre nel capoluogo toscano in contrapposizione con la legge Saccardi, che è questa legge regionale che un po' ricalca il piano casa targato Renzi e Lupi, un po' prova appunto ad andare a incidere ulteriormente sulla vita di migliaia di occupanti della regione toscana e su chi non ce la fa più a sostenere gli affitti. Quella appunto della legge Saccardi è un po' un ariete che il governo Renzi prova a mettere in campo rispetto all'emergenza abitativa, si prova a far breccia in un territorio, quello toscano, dove appunto patria del renzismo sulla roccaforte, si prova a mettere in difficoltà la lotta per la casa andando ad attaccare in maniera diretta, se vogliamo, se è possibile, la legge Saccardi è anche peggio del piano casa, poiché oltre prevede l'aumento dell'affitto di locazione dei locali ERP, quindi delle case popolari, prevede che, come si diceva anche inizio puntata, che chi fa parte appunto di liste abitative, di occupazioni, non può accedere alle graduatorie per alloggio popolare per almeno 5 anni, si prova a cancellare da questo paese la categoria occupante, di conseguenza non si possono nemmeno richiedere sgravi fiscali, borse di studio, non si può accedere all'ISEE, e di conseguenza diventa sempre più complesso vivere in questa società italiana essendo un occupante di casa. Stanno provando a cancellarci in qualche modo. Per non parlare poi del tema delle residenze, tante volte dibattuto anche in questi microfoni, tema delle residenze che dal punto di vista giuridico ritroviamo all'interno dell'articolo 5 del decreto Lupi, dove ricordiamo vengono negate le residenze a tutti coloro che vivono all'interno delle occupazioni. Qua a Roma sono state tante le mobilitazioni dentro le circoscrizioni, ricordiamo l'occupazione di diversi giorni dentro l'anagrafe per far presente questo problema, perché le residenze contano in qualche modo, visto che tramite le residenze si possono iscrivere i propri figli alle istruzioni primarie come asili e scuole elementari, e tramite le residenze si accede appunto anche alla sanità locale, quindi alle ASL, al medico di base, tutti appunto diritti che dovrebbero essere inalienabili in qualche modo, o che così ci dicono che dovrebbero essere in questo paese, ma che vengono puntualmente attaccati quando poi uno prova a mettere in campo iniziative di lotta forti come sono stati gli ultimi 2-3 anni di lotta per la casa. Adesso la risposta del Movimento Fiorentino c'è stata, diverse centinaia di persone hanno sfilato in corteo per Firenze per condannare gli sgomberi della settimana scorsa, sgomberi politici, ma che vanno a far male quando mettono in mezzo alla strada decine e decine di centinaia di famiglie in questo caso, e decine di bambini che vivono nell'occupazione, che poi sono i primi a pagare le conseguenze di queste riforme. È stato un corteo che ha stazionato davanti alla sede della Regione Toscana per chiedere spiegazioni su come intendono portare avanti questa macelleria sociale, su fino a dove vogliono arrivare in qualche modo, e provando anche ad aprire un dialogo, il dialogo che ovviamente non c'è stato da parte delle istituzioni, e di lì a poco sono addirittura, quando il corteo ha provato a rimuoversi liberamente per le vie di Firenze, è stato caricato e ci sono stati anche diversi feriti. Quindi la descrizione di questo panorama in qualche modo ci restituisce una situazione complessa di una lotta che fa paura, che inizia a in qualche modo a far vacillare a far vacillare la nostra controparte istituzionale, che da un lato è in difficoltà, perché gestire queste emergenze sta diventando sempre più complesso, visto che le persone iniziano per fortuna a organizzarsi, a ribellarsi e a resistere a quanto gli viene fatto, e d'altra parte usano il pugno duro della repressione per provare a spaventare, per provare a fare anche terra bruciata intorno a chi si sta mettendo in gioco per resistere. E adesso vi lasciamo nuovamente a un piccolo spazio musicale, poi torneremo in chiusura di puntata con degli aggiornamenti dall'università di Amsterdam, che ricordavamo nelle scorse settimane è stata occupata più volte, sono state occupate più facoltà, più sedi dell'università contro dei tagli che riguardano il mondo della formazione universitario olandese e anche la gestione dell'università stessa. Well, I say, woman, how will I find this ain't no punk thing? Gotta have a girl every day round here. Woman, if you want me to pick all the punk thing, just say the word, I and I will be there. Woman, I'm alive and this ain't no punk thing. Gotta have a girl every day of my life. If you want me to put on the something, just say the word, everything going be nice. But a punk, Christian a junk, Genius. A full of silly stunts. A long time we have the girl, them rough up like blunt. Every second, every minute, every day, every month. So me big up all the girl, them with the bang club. Intelligent girls, say them no deal with no chump. So we have to love the girl, them here, tell you up front. We no utter, we no grunt. Me say you're on the hunt. A one thing we're looking at her. Girl, give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Right, it's worth more than diamond and pearl. Give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. SP gonna rock your world. Give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Give your love and make you do them, girl. Give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Stand up, I come to rock your world. From the north to the south, to the east, to the west, the girl and say peasy, give them love in the best. We kiss and caress, be ease out all the stress. Feel the sweat up on my chest, I drop down from her. Girl, she tell me say the love life, she got it in a mess. Word. She can't put it on, so she giving him a rest. Hot she down. Never get it good, nothing more, nothing less. Stand up all when she want come test, girl. Give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Yay. It's worth more than diamond and pearl. Give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Dusty Park comes to rock your world. Give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. I give you love and make you two of them, girl. Give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Shonda Park comes to rock your world. Well, a woman of her life and this ain't no funk thing. Gotta have a girl every day round here. That's woman, right. If you want me to pick all the funk thing, just say the word, I and I will be there. Woman of her life and this ain't no funk thing. Gotta have a girl every day of my life. If you want me to pick all the pumpkin, just say the word, everything going be nice. Just say the word, everything going be nice. Girl, a long time I tell you don't be cool like no ice. Just say the word, I and I will be there. Girl, you know SPC are the man around here. Now, give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. It's worth more than diamond and pearl. Give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. SP gonna rock your world. Give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Give you love and make you two of them, girl. Give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Shonda Park comes to rock your world. Give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Shonda Park, what we tell them, say give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Yo. Give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Shonda Park comes to rock your world. Give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Yo. I saw we tell them, give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Hey yo, I saw we tell them, give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Yo, I saw we tell your girl, give me the loving, give me the loving, give me the loving, girl. Yo, so I may tell them, say, this ain't no funk thing. Give me the loving, girl. This ain't no funk thing. Still pimping, give me the loving, girl. This ain't no funk thing. Give me the loving girl. This ain't no funk thing. Ain't no funk thing. Give me the loving girl. Yeah man, original thing again. General Levia Lance and DJ Jeff. For the girl them worldwide. Report to the dance floor. Who's in the star? Yo! Bada bada bang down ding. Somebody bada bang down ding. Pee numbin' um. Somebody bada bang down ding. Somebody bada bang down ding. Pee numbin' um. Bada bada bang. Bada bada bang. Bada bada bang. Bada bada bang. Bada bada bang. Like a champagne bottle, spit like a stallion, like a supermodel. And when she's in the club, bounce, bounce like a bubble. Some guy won't give you hustle, but them can't give you trouble. Cause them a frizzle puzzle, and you're an angel. Should never leave it there on the profile. DJ Jeff, I'ma tell the girls I'm in a style. All the girls are worldwide. Sickening, sickening, sickening, sickening. Sono le 11:29, siamo ovviamente in chiusura di questa puntata di Sapienza Clandestina sulle 87.9 di Radio Onda Rossa. Vogliamo chiudere appunto sicuramente rilanciando su quanto sta succedendo in Olanda in queste settimane. L'Università di Amsterdam ormai è in mobilitazione dai primi giorni di febbraio, si sono susseguite numerose occupazioni di facoltà dell'Ateneo, di sedi istituzionali che hanno portato a 46 arresti durante uno sgombero, tutti poi di lì a poco rilasciati, ma anche appunto questo intervento delle forze dell'ordine, queste minacce di multe, di denunce, non hanno spaventato questo movimento che continua a delinearsi determinato e a portare avanti iniziative di lotta. Continuano le occupazioni e le mobilitazioni di facoltà e sedi contro la gestione dell'università, una gestione ovviamente verticale che proviene dall'alto, che anche noi tante volte abbiamo denunciato vivere nei nostri atenei, rivendicandoci la volontà in qualche modo di determinare quanto succede e quanto avviene all'interno della nostra città universitaria, riassumendolo con lo slogan: l'università è di chi la vive. Mentre dal lato della formazione vengono tagliati diversi corsi delle facoltà umanistiche, che appunto sono quelle facoltà meno produttive, che hanno sì tanti iscritti ma che ricevono pochi fondi. Questo perché laurearsi in lettere, laurearsi in filosofia, in storia, non ha lo stesso impatto economico nel nostro sistema del mercato del lavoro europeo che può avere una laurea in ingegneria o in fisica, che sono sicuramente più spendibili. Ovviamente sempre con gioia apprendiamo che tanti sono i nostri coetanei in giro per il mondo e per l'Europa che prendono parola su ciò. E pensiamo appunto di continuare a seguire questo movimento di studenti e studentesse che da Amsterdam poi per fortuna si sta propagando in giro per l'Olanda. In chiusura, essendo l'11 marzo, appunto questa mattina si ricordava l'incidente di 4 anni fa di Fukushima, e parlando di 11 marzo non si può non ricordare la morte di Francesco Lorusso, uno studente di medicina di Bologna che è stato ammazzato 40 anni fa, più di 40 anni fa ormai, a Bologna, in seguito a degli scontri con delle forze dell'ordine durante un convegno di comunione e liberazione che si teneva all'interno dell'università bolognese. Sicuramente ci fa piacere ricordare questo studente che, come noi, tanti anni fa provava in qualche modo a costruire un esistente differente, che provava dentro l'università e nella città di Bologna a costruire un futuro diverso. Adesso io vi lascio, vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che Sapienza Clandestina su Radio Onda Rossa viene trasmessa tutti i mercoledì dalle 10.30 alle 11.30. E un saluto dunque finale di questa trasmissione, in particolare a tutti quelli e quelle che sono private delle loro libertà. Ci vediamo mercoledì prossimo alle 10.30 qui su Radio Onda Rossa.